Lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Si vergogna. Si dimetta dalla posizione che ha. Io non so come fare a tenerla lì. Ecco, capito? Anche questo è vero, ha ragione, Libano. Un insultatore. Ma roba, da io esprimo le mie idee. Guardi, le do un consiglio. Dato che io non sono d'accordo con lei, mi chiuda la, no, la comunicazione. Perché no. Lei è anche un personaggio del genere. Sì, che quando bravo, uno fa girare le palle, chiude la comunicazione. Si vergogni. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Piccoli schifosini. Io ne posso più di sti merdosi, eh? Costa legge fiano, eh? Allora, ora vogliono sfare le statue, vogliono buttare giù gli obelischi, cancellare le scritte Dux. Però allora ste merde devono anche ributtare giù tutte le strade, tutti i ponti, tutte le città. Buttassero giù Latina allora, buttassero giù le strade che ha fatto, riaprissero le bonifiche, ributtassero tutta l'acqua da quelle pianure. Perché non si può cancellare la scrittina dalla statua che non serve un cazzo e dopo casomai arriva di lì e presa una strada fatta nel fascismo. Ho attraversato una pianura bonificata nel ventennio. No, cazzo. Vuoi cancellare le scritte? Riapri la bonifica, ributta l'acqua, rifà tornare le zanzare. Tutto quanto, o tutto o niente. Facile cancellare la scrittina dalla statua, vero? Brutti bastardi. Parenzo, ti voglio carico! Vaffanculo sto testa de cazzo, fallo scendere dal piedistallo, sto testa de cazzo de nebreo, che quest'anno proprio non si può sentire. Ragazzi, vi faccio subito venire lo schifo, vi faccio subito venire la rabbia, vi faccio subito incazzare, vi faccio incazzare, vi faccio sentire il padre, si chiama Mohammed, un nome abbastanza comune tra i Muslim, come dico io, no? Tra i Muslim. Mohammed è il padre dei ragazzi minorenni marocchini, anche lui con un anno di prigione alle spalle, poi era stato espulso dall'Italia, poi è tornato, ha preso 6 mesi per ingresso clandestino in Italia, adesso è residente qui in Italia, insomma il padre dei due stupratori marocchini, anche se loro dicono di avere solamente partecipato allo stupro di Rimini nei confronti della polacca e della trans, di non avere partecipato attivamente, ma è come se avessero partecipato. Vedremo quello che succederà. Il signore intervistato dalla trasmissione Matrix nella giornata di ieri, noi adesso magari più tardi proviamo a sentirlo anche noi, questo signore che si chiama Mohammed dice: spero di vedere presto i miei figli, di vederli presto fuori dal carcere. 2-3 anni ed escono, cambiano il recupero del carcere, 2-3 anni ed escono e si rifanno una vita nuova, il signor Mohammed. E da lì speriamo escono bene, puliti, e questa compagnia non c'è più, vanno avanti la vita, perché sono giovani ancora. Mi dispiace per quella ragazza polacca, per col trans, una cosa brutta non si fa, ma capitata, adesso sono ragazzini, 2 anni e 3, escono a lavorare, cambiano la vita, fanno figli, fanno loro famiglia. Ho fatto un anno di carcere. Io ho 30 anni in Italia, avevo 3 mesi nel 2004, 3 mesi in 2012 e 6 mesi adesso, perché mi hanno condannato, perché è tornato dal Marocco come clandestino. Un anno di carcere in Italia in 30 anni. Allora, questo signore dice che da 30 anni in Italia ha fatto un solo anno di carcere, come se fosse chiaramente una roba. Ma è normale che, come lui da padre, dica, è normale che lui da padre si auguri che esca adesso, questo non mi sembra. Sì, ma ragazzi, allora io dico una cosa: vi pare normale? Voglio fare un paragone assurdo. Ti voglio fare un paragone assurdo. Lo so che adesso mi attaccherai, eccetera. Allora, chi espone una testa del duce su internet, chi pubblica una testa del duce su Facebook, rischia fino a 2 anni, e magari ci sarà un giudice che un giorno si alza, riceve una denuncia e mette sotto processo un signore che pubblica una testa del duce, una foto di Mussolini su internet, e questo qua prende 2 anni magari, perché il duce, perché pensa che magari questo è un fascista, perché ne ha messa 100 di foto. Invece questi qua che hanno stuprato, possono fare 2 anni di carcere. 2 anni per gli stupratori marocchini, 2 anni per chi espone la testa del duce. Questa è l'Italia, ragazzi. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Non fare dalla vostra parte. Non fare dalla vostra parte, ragazzi. Che sei un ospite perfetto per andare lì a urlare. Beh, anche tu. Con delle anche vecchie che vengono istigate, delle vecchie, no, e anche le tra l'altro delle vecchie signore di 70 anni, livorose e cattive, che vengono messe in vetrina a urlare. Perché sono così le vecchie di dalla nostra parte. Lo so, l'hai già detto. Guarda, sì. È una figlia. No, l'ho già detto, ma l'ho rivisto anche ieri sera. E invito i telespettatori, i radioascoltatori a notare solo questo dettaglio: vecchie livorose che urlano nelle piazze. Dici, non corrisponde. Ma andate a fare gli gnocchi a casa, che le nonne quello devono fare anziché urlare nelle piazze, che impressionate i bambini piccoli, peraltro. Ragazzi, 2 anni per chi espone la testa del duce, per chi mostra delle foto, per chi pubblica delle foto su Facebook, per chi ha dei gadget, per chi vende. 2 anni rischiano, potrebbero uscire dopo 2 anni, ma alcuni dicono che è quasi sicuro. 2 anni per gli stupratori marocchini. Questa è l'Italia, Parenzo. Questa è la tua Italia, non la mia. Ma non è così. Questa è la tua Italia, di chi ha voluto la legge Fiano e di chi vuole pene molto basse per i minori. 17-15 anni per alcuni reati come gli stupri. Non ci deve essere la questione di essere assurdi. La questione dei minori va cancellata. Se tu stupri una persona a 15 anni, 17 anni, sopra i 14 anni, se sei uno stupratore, deve valere la pena come per gli adulti. Non ci rompete i coglioni con queste cose dei minori, devono recuperare, perché per alcuni reati, stupro, omicidio, eccetera, no, questa cosa qui andrebbe cancellata. No, ma questo posso essere d'accordo. No, con non te, sei d'accordo, non sei d'accordo. Tu e la tua cricca. Tu e la tua cricca. Quale cricca? La cricca di gente garantista, il recupero del carcere. Adesso preti, devo un attimo capire, su questo punto vorrei confrontarmi con il professor Zagrebelsky. Se vuoi, confronto, facciamo un approfondimento molto serio. Confronto. Un approfondimento serio. A proposito dei carabinieri, il ministro della difesa, che come sapete, i carabinieri sono sotto la difesa, no? Non sono sotto la Pinotti. Certo. Sotto la Pinotti, sì. Il ministro Pinotti dice che la prima vittima di questa storia è l'arma dei carabinieri. Adesso, per carità, io direi la seconda vittima. Ecco, però, appunto. Insomma, appunto, io direi la seconda. Noi questa sera dobbiamo dare certamente un messaggio di condanna fermissima, ma anche un grande abbraccio all'arma dei carabinieri, che è la prima vittima. Che è la prima vittima, e a tutti quelli che in questo momento sono sulla strada e soffrono per quello che è avvenuto, perché indossano questo uniforme. Forme l'hanno vista macchiata. Beh, anche il signor Vespa, ha suggerito questa soluzione. Il signor Vespa, ottimo, mi pare molto buono. Signor Vespa, ha suggerito. Mi pare ottimo, Vespa, no? Che dici tu? Mi pare buono, no? Ha suggerito alla Pinotti la risposta. Ottimo. Sallusti ottimo. Dice: carabinieri, anche tra gli apostoli c'erano i traditori. È ovvio che i traditori esistono in qualsiasi consesso, addirittura c'era tra gli apostoli uno che ha tradito Gesù Cristo, ma non per questo gli altri apostoli sono, come dire, sono finiti nel fango e nella vergogna. Ragazzi, ma qui bisogna anche ragionare. Nessuno mette alla gogna l'arma dei carabinieri. Cioè, nessuno ha attaccato i carabinieri. Però in quanto tali. Gli immigrati li mettete alla gogna, invece. No, questa no, quelli che hai fanno i crimini. Una cosa molto quelli giusta. Che commettono, cioè, i crimini. Hai detto una cosa giusta. Così come l'arma dei carabinieri non deve sentirsi totalmente macchiata per questo orribile delitto, così come non possiamo identificare in ogni rifugiato un potenziale stupratore. E chiudiamo qui, perché la frase così costruita era tecnicamente perfetta. Così come non possiamo ritenere l'arma dei carabinieri lorda, per i reati commessi dai due. Così allora dovete dire i rifugiati. Hai detto la tua cazzata delle 18:44. I rifugiati non sono stupratori. Voi state violentando la verità. Sì, tu, vabbè, libero dalle vostre parti, le quinte colonne, violentate la verità. Sì, questo certo fate voi. Allora, si aggira per l'Italia un personaggio particolare, sì, ne avete sentito sicuramente parlare. Trattasi del generale Pappalardo, ex generale dei Carabinieri. Generale Pappalardo, che è stato anche in Parlamento. Ricordami un attimo chi è il generale. Generale Pappalardo è stato in Parlamento. Pare, anzi è sicuro, prende anche un vitalizio, però vorrebbe arrestare i parlamentari. Sì. Arrestare i parlamentari fatto, perché sono illegittimi. Senti, ha organizzato una specie di manifestazione in questi giorni. Che lo ma sai com'è finita questa manifestazione del popolo che doveva circondare il Parlamento? Con una, hanno consegnato una carta a un poliziotto che dovrebbe consegnarla a sua volta al capo dello Stato, cioè una diffida. Ma l'aveva consegnata a un medico e l'avranno portata all'ospedale, ma qual è il capo dello Stato? Noi abbiamo consegnato un atto di diffida al capo dello Stato che deve sciogliere il Parlamento entro 30 giorni perché la Corte Costituzionale l'ha dichiarato illegittimi, se ne debbono andare a casa. Oh Parenzo, ma hai rotto i coglioni con sto catarro? Curati, miserabile. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta La Zanzara. Due minuti di ritardo. A Bari su, c'hai rotter cazzo, Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cruciani, ciao. Io prenderei Butungu, i due carabinieri, pure quello del Bangladesh, li metterei nella stessa cella e poi butterei la chiave. Quando verrà fuori che le americane si sono inventate tutto sullo stupro, secondo te quanti anni di galera devono fare? Sugli stupri parla Salvini. Tu dirai, caro David, non è una novità naturalmente che parli sugli stupri, no? Strano lì che non abbia parlato prima, ma mi pare che già lo ha fatto. Allora, abbiamo preso un esercito di giovani 20-30 anni. Cosa vuole che facciano? Parla ovviamente degli stupratori. Di chi parla? Dei due carabinieri? No, esercito? No. Parla, a parte che lì, dobbiamo dirlo, possiamo dire chiaramente, ha negato anche il secondo carabiniere. Lì lo stupro non è evidente, lo possiamo dire chiaramente, è inutile che fai il furbo. Guarda, lì lo stupro simpatico. Non è evidente lo stupro, come invece per il caso di Rimini. Fai il garantista con quelli di pelle bianca. Ma che c'entra? Ormai. Ma che dici? Sei pazzo? Gli altri, siccome sono negri, fai il garantista quelli di pelle bianca. Ma che dici? Peloso, ma che me ne frega peloso. A me? Adesso ti metti a fare pure le indagini a dire non è detto che lo sia perché lei forse ha alzato la gonnella anche se aveva bevuto. Non ho detto questo. Ho detto che mentre lo stupro in quel caso è provato, in questo caso qui non è provato. Basta. Sempre di stupro si tratta, come hanno spiegato. E che ne sai tu? Che ne sai che è stupro? Gli avvocati di parte! Prendi gli avvocati di parte! Se Dai. Tu ti approfitti di una ragazza che ha bevuto e fumato, quello può essere considerato comunque stupro e violenza. Lo sai che è così. Ma lo dicono la per carità. Ma va bene, ma avrai un seggio di noi con Salvini, non ma c'è problema, cagare, tu hai il seggio al Senato. Non c'è nessun Salvini, problema. Salvini, sentiamo, benissimo. Sentiamo, magari, sentiamo. Quando tu chiami qua un esercito di centinaia di migliaia di maschi, giovani, fra i 20 e i 30 anni, che lasciano a casa mamma, moglie, figli e mariti, dopo un po' cosa fanno, secondo lei? Lei quante donne e bambini vede in giro per Roma come richiedenti asilo? Oh, qua ci stia riempiendo di ventenni e di trentenni che io vorrei aiutare economicamente, dice, è un problema di integrazione. A stare in Africa per crescere le loro famiglie. È un famiglie, problema di integrazione, mi dice. Evidentemente sì. Cosa vanno in giro a fare? No, no, che sia un problema di integrazione. Ed è un problema anche di rispetto. I vaccini sono troppi, poi dice, un regalo alle multinazionali sulla pelle dei bambini. Un'altra volta aveva detto anche da noi che l'Italia è una specie di cavia delle multinazionali. Prima che riparte nelle macchine, Alessandro da Brescia. Anzi no, vi voglio far ascoltare un'altra cosa. Ce l'abbiamo Salvini sugli italiani che andavano in Svizzera, la differenza? Noi italiani c'entravamo in tutti i modi in Svizzera. Perfetto, però gli italiani che andavano in Svizzera non avevano casa, lavoro, pranzo, cena e telefonino e cuffiettine regalate dallo Stato. Perché se li pagavano loro. Allora, quest'ora non perdiamoci. È incredibile, la clac di Salvini, non so se siano suoi tifosi o semplicemente dei cittadini che vanno lì reclutati dalla 7 nel programma di Floris. La clac ogni volta che va da Floris e parla, io lo trovo una cosa fastidiosissima in generale. C'è l'applauso dietro scrosciato. Beh, non posso fare una critica al programma della 7, che sei? Cosa? No. L'avvocato della 7? Che cazzo? Alessandro da Brescia. Mica ho detto che c'hanno la rabbia, no? Alessandro, ho detto che mi dà fastidio l'applauso. Che cazzo? No, a me invece pare anche un'ottima idea questa idea di avere uno studio. Ma è fastidiosissimo, ma è una cosa finta, falsa, è falsa, è una cosa finta e falsa, basta. La Alessandro, trovo una scelta straordinaria, sì, fatta da un maestro quale vabbè, Floris, dai, che mi pare sulla 7 forse eserciti un programma. Bene, ottimo, molto sì. Alessandro da Brescia, dai. Ciao. Ma io mi chiedo semplicemente una cosa, ma la gente quando fa delle leggi in cui dice non devi fare apologia al fascismo, non devi esporre sbatti, non devi fare tutte queste cose, ma pensano di eliminare quella che è l'ideologia insita in un popolo attraverso la negazione semplicemente di simboli. Ma no, non è così che funziona. Cioè, non ho capito, Alessandro, cosa stai dicendo? Spiegami. Cioè, uno espone la testa di un duce, allora dicono tu sei, viene questo qua, viene messo in croce, è fascista, lo mettono dentro, due anni di galera, peggio degli struppatori. Sì, poi non succederà, deve passare al Senato, poi non succederà. Comunque. Ma va benissimo, non succederà. Allora? È già questo che non succede, Cioè tu dici, pensano di eliminare il nemico, questo, un'ideologia attraverso le condanne, attraverso i processi, attraverso una cosa di questo tipo, ma non esiste una cosa di questo tipo, non è mai successo nell'arco di tutta Fabrizio da Milano. Pronto? Dimmi. Aspetta che sono in viva voce, lo tolgo subito. Tac. Giuseppe, il numero uno, tutto bene. C'è anche lui, il rottame, mamma mia. Dimmi, sì, c'è Parenzo. Allora, se volevo dare ragione sul progressista edito rottame, muovere, arrivo pure da te. Sul programma di Floris, che è imbarazzante, gli applausi. Qualunque cosa dicono, tutti e due applaudo. Comunque, questo faccia schifo. Solo dire a Parenzo, e lui è a Fiano, gli devono esultare troppo, perché tanto nel 2018, quando andrà su al governo, spero centrodestra, tanto con la legge del cazzo che stanno facendo la tolgono. È inutile che gode perché uno vende l'accendino di Mussolini, deve andare in galera. Ma tu sei quello che c'hai tatuato, sono sempre io. Ma che c'hai? Che tatuaggio hai tu addosso? Ma io sono pieno di tatuaggi di Mussolini, del Milan, di tutto, ma non è questo, è la cosa ridicola. Poi quello che ti dico io, Giuseppe, che questo aspetta, che a me mi fa incazzare. Ascolta, ma io ti dico una cosa, te innanzitutto vatti a fare un esame del sangue, perché ormai sei color giallo epatite e sei una roba imbarazzante da vederti. Uno, due, veramente ormai sei un sei la brutta coppia di Costanzo e ti vesti anche peggio di Costanzo. Ma dove cazzo le trovi quelle giacche? Sei imbarazzante, sei. Guarda che Cairo sarebbe veramente da processare per crimini di guerra. Mettere adesso io capisco che il buon gusto non sia di casa. Televisione. Mamma, costano quanto la tua istruzione, cioè evidentemente. Ma dove cazzo, ma sai che quelle dove le trovi te le trovi al bidoncini, quelli della è una delle più grandi santorie italiane, ma devo spiegare a te. Ma dove cazzo le trovi quelle giacche? Ma neanche gli immigrati che arrivano qua col barcone gli mettono su quei vestiti, stanno freddo perché hanno vergogna pure a me. Scusami, Fabrizio, ma di che volevi parlare? Degli stupri, te? No, ma degli stupri, non mi interessa neanche più degli stupri, cosa ti devo dire? Giuseppe, questa è colpa nostra, io ti spiego solo due secondi. Aspetta, però devo dare la linea, fermo un attimo, dopo ti richiamo. Dai. Ma devo mettere giù? Per forza, devi stare un quarto d'ora col telefono in mano. Ok, allora fare il culo, te lo dico io. Stai zitto, Costanzo dei poveri. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin nel banco freezer. Vi presento la zanzara. Io non penso che ci voglia una laurea ad Harvard per capire che non siamo preparati per accogliere tutta questa gente, che non possiamo accoglierla senza fare selezione. Questo non è razzismo. Io vorrei sapere con che parole Parenzo potrebbe andare da quella ragazza di 18 anni a cui è stato tolto l'utero perché si è viziata da persone che non dovevano essere nel territorio italiano e che non potrà più diventare mamma. Come glielo spieghi, Parenzo? Con quali parole? Con quali parole giustifichi queste cose? Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare uno sfaccimi i messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701. Scontro in TV tra il prete pro migranti, quello che ha portato e alcuni ragazzi di colore in piscina, Don Biancalani, credo fosse Pistoia, e la signora Ceccardi della Lega Nord, sindaco. È un'ottima persona quel prete. Beh, anche la Ceccardi invece no, non è un'ottima persona? Il sindaco della Lega? Io quello che io, sai che non parlo strano, io dico le cose dire. Ottima persona quel prete, su quell'altro nome che hai fatto non mi posso al momento esprimere, voglio sentire cosa ha detto, per ora dico solo che il prete è un'ottima persona e andrebbe premiato, il Quirinale lo dovrebbe chiamare, gli dovrebbero dare una medaglia per gli insulti che ha ricevuto e per questa cosa straordinaria che ha fatto di portare, ma sai che mangiano anche tre volte a settimana quegli immigrati, quei ragazzi, sai che mangiano? Mangiano anche la frutta, lo sai che mangiano la frutta? Infatti io non ho mai attaccato anche un pezzo di formaggio, ma... e sorridono, ridono ogni tanto, sorridono. Ma guarda, è inutile che lo dici a me, ma non lo dire a me, perché io non ho mai attaccato questo prete perché ha portato in piscina quei ragazzi, mai, ecco, mai, non l'ho mai attaccato, ma non mi permetterei mai, ma guarda, non eravamo in onda, ma non eravamo in onda, coglione. Appunto, non sei andato in onda perché il prete l'ha mandato, hai fatto una cosa vergognosa. Non c'era la trasmissione, che dici? No, vabbè, intanto abbiamo detto un po' di informazione. Biancalani contro Ceccardi. Paure, xenofobie, cose. Vedo che Susanna Ceccardi non è d'accordo. Si è finita l'omelia, vorrei dire una cosa al parroco. No, non è omelia, non si parla. Allora, la Chiesa Cattolica dovrebbe insegnare alle persone. Ma scusi, perché omelia? Per cortesia, era una battuta. Omelia. Non esiste l'integrazione senza passare dalle regole, senza passare dal lavoro. Lei cosa sta insegnando a questi ragazzi che sono lì tutto il giorno in piscina a fare niente con lo smartphone? Bisogna accogliere soltanto, bisogna accogliere, possiamo accogliere se abbiamo da dare del lavoro. Purtroppo i tassi di disoccupazione in Italia ci dicono che il lavoro da dare agli stranieri non ne abbiamo, perché non ne abbiamo neanche per i nostri italiani. Ma lo dice lei. Allora, la signora Ceccardi, come la definisci la signora Ceccardi che ha detto, ha sostenuto? La Ceccardi deve occuparsi di amministrare il suo comune anziché dare lezioni di Vangelo a un prete. Cioè, voglio dire, la Ceccardi credo sia della Lega, ma se non è della Lega, di qualche roba, di qualche accrocchio simile, tutto uguale, allora? Tanto, dovrebbe, anziché insegnare il Vangelo, pensare all'amministrazione della sua città, anziché pontificare col prete su quello che deve fare. Ha detto anche che quei ragazzi di colore sono in piscina a fare nulla con lo smartphone, cioè vengono in Italia, vanno in piscina e sono sostanzialmente nulla facenti. Ma nulla facenti. A chi dai voce tu? Ti rendi conto? A chi dai voce? Perché tu no? Perché tu no invece? Tu no invece. Ma io gli do voce per metterli in discussione, per criticarli, per far capire che dicono delle scempiate mega galattiche. Allora, io le facce di quei ragazzi le ho conosciuti perché li ho intervistati, li ho visti in faccia, li ho invitati in studio, li ho abbracciati, li ho abbracciati quei ragazzi, li ho visti in faccia. Che bisogno c'è di abbracciarli? Sono sentiti, che bisogno c'è di abbracciarli? Perché, perché bisogna abbracciarli? No, io l'ho abbracciati perché da italiano mi sono vergognato della quantità di insulti che hanno ricevuto quei ragazzi per un semplice sorriso. Quello che ha fatto la linguaccia, la dovrebbe rifare a tutti voi. Ma io che cazzo c'entro? Ma chi se ne frega? Io ho detto al prete, non mi ricordo come si chiama, Don Biancalani. Tanto lui sapeva, prete, sì, prete che parlavo con lui. Sì. Gli dicevo, amico prete, ogni giorno fai una foto di lui che fa un sorriso, uno sberlo. Bisogna sfidarli questi qui. Ogni giorno andava pubblicata la foto di uno sberleffo di tirare. Allora, eravamo con Fabrizio, eravamo col professor Fabrizio da Milano. Professor Fabrizio. Quando ha finito di parlare supplente, che tanto lo invitano in televisione solo quando vanno in vacanza a Mirta Merlino, così Rampulla, stai in panchina che parliamo noi. Anche questo dai, sei supplente, cazzo fai, lavori solo d'estate. Contro i supplenti, contro i supplenti, sei ridicolo. Dico, vabbè, veramente, allora. Questa estate è stata l'estate più brutta della mia vita, che dopo 32 anni non sono andato in vacanza, e poi vederti al mattino, dopo che mi svegliavo, vedere quella roba brutta in televisione, sembrava TV o centri sociali. Poi il giorno dopo, che quelli di Bologna hanno preso le botte, l'unica nota positiva, i poliziotti che hanno picchiato i centri sociali di Bologna e l'hanno sgomberati. Il giorno dopo il coglione di Parenzo cosa fa? Invita in studio il portavoce dei centri sociali che faceva la pizza biologica. Vai, infilatela nel culo, vai a lavorare. No, la pizza biologica. Lui, il centro sociale, biologica, senza fare gli scontrini, deve occupare uno stabile perché fa la pizza biologica. A schiaffi in faccia lo prendo. Entro dentro io e il mio pitbull, vede, altro che sgombero, senza poliziotti. Io e il mio pitbull, tutto li sbatto fuori quelle merde. Dice, ma coglione, che sai che tu a me, solamente che mi vedi in faccia e ti faccio buti, scappi via, coniglio. Ma non è bello però usare la violenza in questo modo, scusa Fabrizio. Ma non è violenza, io violenza la uso con chi, quelli dei centri sociali, ma come i stessi di Casa Pando, io non discuto, se uno occupa non deve occupare, ma quelli dei centri sociali sono peggio ancora, quelli vado io a sgomberarli senza bisogno della polizia. Noi abbiamo Parenzo, il nostro pitbull, Fabrizio da Milano, il nostro pitbull. Fammi salutare l'editore di Radio Parsi, falla una persona per bene che mi ospita qui a Pescara. Vabbè, allora Fabrizio, allora non ho capito. Meraviglioso. Comunque ti stavo dicendo, Cruciani, che sono arrivato anche al punto che tanto non è colpa loro, non è colpa... Una, tra parentesi, vuole dire una cosa, parentesi, chiudiamo il discorso. Oggi è stato stuprato un'altra ragazza ed è stato un israeliano. Però nessuno viene a dire, gli ebrei stup... Perché questo è un caso isolato. Come se domani un danese stupra una ragazza. Quello è un bastardo. Se tutto questo casino sta succedendo è perché forse ogni giorno c'è un cazzo di emigrato che stupra delle persone. Perché l'israeliano di oggi nessuno ha detto niente, perché può capitare. I pezzi di merda ce l'abbiamo in Italia. Ma tu che faresti agli stupratori? Scusa, tu io cosa farei? Guarda, te lo dico subito, senza neanche... Tu guarda il film Giustizia Privata. Non so se l'hai mai visto. Quello che entrano dentro i due ladri che gli stuprano la figlia e tutto quanto. E poi lui a uno e l'altro lo prende, lo lega al letto, sopra gli mette un bello specchio, lo riempie di morfina e tutto, e poi ogni secondo gli taglia un pezzo del corpo. E lui intanto deve restare vivo mentre poi si vede allo specchio. Ecco, quando tu fai una roba del genere a uno di quelli, il secondo non lo fa più. Perché quello che sta succedendo in Italia, come mai non succede in Russia con Putin? Allora, perché David, hai capito la regola di Fabrizio da Milano contro gli stupratori? Hai capito, David? Anzi, sei italiano, peggio ancora. Se fosse stato italiano, peggio ancora. Aspetta, Fabrizio, David, dimmi che dovevi dire. No, voglio dire, questa è una persona sconcertante, è una persona anche disturbata, perché uno, diciamolo chiaramente, uno che chiama una radio è un disturbato, cioè uno che in particolare in questo programma, uno che accende la gente, ascolta la radio, questo qui chiama per insultare, è un povero disturbato, dopodiché, il fatto per fortuna che questa trasmissione dà la possibilità delle persone potenzialmente violente, disturbate, malate, questo qui magari per fortuna chiama, altrimenti avrebbe, come dire, investito una nonna che attraversa sulle strisce pedonali questa persona. Ma perché una nonna? Quello figura di una nonna. No, io voglio così bene. No, ma nonna. Perché è una persona potenzialmente violenta, si sfoga attraverso questo canale. Allora, però Fabrizio da Milano è stato quello che ha coniato una straordinaria espressione di una persona che conosce. Scusami Giuseppe se ti intendo, ma si può mettere in televisione Telese, veramente imbarazzante, Hitler è uscito dal McDonald's,

è madre dei rabbini ebrei, capito? Dei cravattari, ha capito? Le nonnine di oggi non ci hanno più una lira per fare un dolce ai nipotini, capito? Perché se li mangiano tutti quel figlio della mignotta come quello che hai difeso prima, rabino, capito? Ma se c'è uno stupido, un deficiente, non so quelli che chiamano, sei tu testa di cazzo di un ebreo, stronzo, cretino e imbecille. Vattene a fanculo, stupido, stronzo! Certo che ti vuole bene il signor camionista romano, il solito camionista romano. Mi pare di capire che evocasse il mio nome, ho capito bene? Il tuo nome soprattutto sottolineando ebreo. Io questo non capisco dell'amico camionista romano, lo abbraccio fortissimo, lavoratore. Di cui quello abbiamo il numero, i dati, sì, vero? Sì, il numero, l'abbiamo. Lavoratore vero, lavoratore vero, non lavoratore reale, esistente, cioè in carne e ossa, gente che si spacca la schiena. Io questo non capisco, io ti abbraccio fortissimo, per carità, rispetto le tue idee, anche se qualche volta sono lontane dalle mie. Perché però devi sottolineare la parola ebreo? È una cosa brutta, te lo dico, una cosa molto brutta, non c'entra niente. Non ti mettere a livello del signore che non voglio di cui non voglio pronunciare il nome. Com'è che si chiama, da Mantova? M che finisce con la O, M che finisce... Non mi ricordo perché è infinitamente più bravo Tornato da Varese. Non mi ricordo l'altro come si chiama. Allora, dove andiamo? Mohammed da Firenze. Comunque, la cosa bella di questa trasmissione, sai cos'è? Poi sentiamo subito l'amico Mohammed. Sì. È che qui si passa dagli ultranazisti fascisti usciti dalla Repubblica Sociale Italiana, sì, sì, agli amici islamici. Cioè è una, devo dire, trasmissione che ha questa polarità, no? Sì, cioè, ma non è che lo scopriamo adesso. Stai dicendo una cosa che è già chiara da anni. Se vuoi sottolineare ovvia. Una cosa ovvia. Anzi, guarda, è il bello di questa trasmissione, anche tutte quelle siglette che mettono, è molto divertente. Ma è una cosa arcinota. Io ora la sto ascoltando qui da Radio Parsifal, che è una radio fondamentale, peraltro, voglio dire. Vabbè, dai, non ci rompere i marroni, l'hai già detto una volta, non ci rompere i marroni, dai, sì. Il futuro è questo, posso dirti che il futuro è questo. Vabbè, allora... Ecco, però, è una trasmissione che vive molto degli audio degli ascoltatori, ma non mi sbaglio. Ma no, non lo sapevo. La Russia, fammi sentire la Russia, eliminiamo il parco del Gran Paradiso. Come? Perché non eliminiamo anche le assicurazioni obbligatorie per malattie professionali, l'assistenza ospedaliera per i poveri, la settimana dei 40 ore, l'assistenza maternità e infanzia, la Corte di Cassazione, l'Istat, il Parco del Gran Paradiso e tutte le realizzazioni del fascismo? Va bene, Mohammed da Firenze, Mohammed, vai. Pronto? Dimmi Mohammed, dimmi. Buonasera, vi amo ragazzi. Io, sì. Tu sei muslim? Faccio... Tu essere muslim? Sono muslim e faccio parte della maggioranza silenziosa. Beh, ovviamente, naturalmente, non c'era dubbio. Ciao fratello, grazie per aver chiamato. Senti, fratello, come si dice, ripetimi un po' bene, che da un po' di tempo che non lo sento, scusami, fammi un Allahu Akbar fatto bene, un bel Allahu Akbar. Bene, ecco te lo faccio, vai a fare in culo, sei che t'ha fatto. No, scusa, amico mio, vai a fare in culo o non lo dici a me? Se me lo dici, tu mi mandi a fare in culo. Perché mi mandi a fare in culo? Spiegami, qual è la spiegazione? Perché mi vuoi prendere per il culo? Intanto, no, voglio mandarti a fare in culo, vorrei dire solo una cosa. No, Mohammed, senti, tu mi devi fare, sì, mi devi dire, no, amore mio, un cazzo, amore mio, cosa, amore mio, sei impazzita? Ma ti amo. Sì, Mohammed, mi vuoi dire per favore? Voglio mettermi il culo. Scusami, Parenzo, per queste parole. Io ti volevo chiedere scusa, ma bisogna rispondergli a tono a questo stronzo. No, ti capisco. Mohammed, scusami, Mohammed, per favore. Ricordati che sei della maggioranza silenziosa, quindi noi abbiamo un eloquio. È un linguaggio diverso da quello che hanno. No, Mohammed, togli viva voce, non sento niente. Niente, Riccardo da Bergamo, richiamiamo, dai Riccardo, vai. Sì, ciao. Dimmi. Volevo parlare con Parenzo e parlare ancora un attimino degli stupri, dei carabinieri. Sì. Allora? Ma ascoltate, Parenzo, ma se tu porti a una ragazza a cena, la fai bere un po' e poi questa te la dà, è stupro? Questo è interessante, però, come cosa. Posso dire una cosa? Aspetta un attimo, fermi tutti. Al di là della questione delle divise, al di là della questione, ovviamente, delle responsabilità che hanno questi durante il servizio, fare sesso, cosa che hanno ammesso, ovviamente, c'è però un punto. Molte persone che conosco, e non sono persone di destra, beceri, maschilisti, eccetera, mi hanno detto, e lo pensano moltissimi italiani e italiane anche, ma a voi non è mai capitato di fare sesso con persone, ripeto, lasciamo perdere la questione, che è importante, per carità, dell'autorità che queste persone hanno esercitato. Direi fondamentale. Sì, d'accordo, però non è mai capitato, e noi stiamo cercando di ragionare su una cosa, stupro o non stupro, perché ancora non è sicura questa cosa, è inutile che tu sbraiti. Non lo sappiamo ancora, loro dicono di sì, quegli altri negano, per cui non lo possiamo sapere esattamente. Non c'è la certezza assoluta da questo punto di vista. Non cominciamo ad andare avanti, mentre lo stupro di Dimi, non mettete le due cose sullo stesso piano, ma non perché sono bianchi e neri. Abbiamo capito in questa trasmissione, in 6 anni abbiamo capito che gli unici ladri che ammettono di essere tali in genere sono i Rom, gli unici. No, questo è tutti vero, gli questo altri è evidente, questo è una adesso cosa ti faccio che sentire un audio a riguardo, i Rom che ammettono di rubare anni, sì. No, i Rom che ammettono, ma non ci rubano di rubare neanche più una notizia, sono persone, no, e gli scusa tu Roma, certo tu Roma, guarda l'orologio, benissimo, hanno rubato e l'hanno anche vabbè, detto allora d'accordo, benissimo. Tutti gli altri criminali generalmente nel 99.9% dei casi negano. Dicono che hanno commesso delle violenze, ma infatti non ti sto dicendo che hanno ragione i carabinieri. No, ma andrebbero in certo modo anche premiati per la loro maledetta sincerità. Questo... Sì, sì, certo, va bene, d'accordo. Comunque ti voglio dire semplicemente che una marea di gente che mi ha chiamato, che mi ha telefonato, che anche in privato, mi ha detto, scusate, non vi è mai capitato di andare a letto, di portarvi a letto, ma ti sarà capitato anche a te, a me no, perché non mi piace andare con le persone ubriache. No, no, non ti è mai capitato di andare a letto con una persona ubriaca? Non ti è mai capitato? A me no, però a molte persone sì, è capitato di andare a letto con una persona ubriaca. Una persona, certamente... No, io le voglio lucide, calde, lucide, Mohamed, dimmi, Mohamed. Allora, aspetta un attimo che torno da te. No, chi c'era prima? Riccardo, scusami, Mohamed, adesso torno da te. Riccardo, vai. Ma scusa, ma se due carabinieri hanno stupato queste qua nell'atrio del condominio, ma nessuno le ha sentito urlare. Non vabbè, ma questo che c'è? Ma adesso non fare l'investigatore, dai, su, ma adesso questo che c'entra? Figa. Non c'entra nulla. Ma che cosa vuoi dire? Spiegami. Voglio dire che comunque sicuramente queste ci sono state. Ma questo ci sono state, furbe. Loro dicono di no, adesso non andiamo oltre. Loro sono state furbe, questa è una cosa che tu pensi. Perché pensi che sono state furbe? Diciamo la verità, tu pensi che sono due puttane. Tu pensi che sono due prostitute. Due zoccole, come si dice, come molti hanno scritto su web. Le quali erano attratte dai carabinieri, se li sono scopati. E poi a un certo punto, per vendetta, non so per che cosa, per prendere dei soldi, eccetera, li hanno denunciati. Ecco, tu la pensi così allora? Sì, io penso così, sì. Riccardo, così, ciao, sì. Ciao. Non puoi? Ciao. Te saluto, ciao. Ciao. Allora, è tornato Mohamed. Allora, Mohamed, dimmi tutto, caro mio. È tornato Mohamed. Mohamed. Scusi, io volevo solo com'è dire... che si dice Mullahu Akbar? Dimmelo, dai. Bene, Allahu Akbar. Te l'ho detto anche prima. Bene, intanto quello... Come si dice Allahu Akbar? Fammi un Allahu Akbar, che qua ci spaventiamo tutti e ce l'andiamo tutti, dai. Quello che voglio dire è questo che sto per dire è per provocare, non lo sto pensando veramente. Allahu Akbar si dice, ah, la maiala di Tumà, così si dice. Vabbè, dai, su. Ti piace? Dai. Dimmi, oh, ma che tu c'hai con... Scusami, fratello, come si dice? Fratello, scusami, fratello. Dimmi. Mio, come si dice in arabo maggioranza silenziosa? Questo è importante, mi piacerebbe. Sì, sì, amore, ma la maggioranza silenziosa amore. Si dice... Ora mi viene perché io ma sono non italiano, sai manco l'arabo, non manco sai l'arabo. Bene, scusi, ma tutti invocano il ritorno di Hitler, Mussolini, ma nessuno lo invoca, chi lo invoca? Ma Mussolini e Hitler non hanno ammazzato nemmeno un immigrato, hanno ammazzato tutti italiani e tedeschi. Questo è vero. Voi siete dei coglioni. Ma chi lo invoca? Sei dei coglioni, tu sarai coglioni. Io non invoco il ritorno di nessuno. Ma io non ho capito, Mohamed, perché hai chiamato? Ma dico lei. Ma lei, perché lei, hai chiamato? Perché hai chiamato? Spiegami. No, perché lei diceva che è indignato. Sì, sono indignato, bravo. Perché lei diceva Mohamed, perché lei, quelli che gli dai la parola per dire invocano Hitler, più che altro vanno contro il mio amico Farenzo e i miei amici fratelli italiani, i miei compaesani, perché io sono italiano. Ti voglio bene, ma so che siete in tanti, ragazzi. Venite qui. Siamo tanti, venite qua. Ragazzi, tanto... tu devi fare il futuro sindaco, ad esempio, dove hai? Da dove chiami tu? No, non voglio diventare sindaco. Da dove sindaco, chiami, io... fratello mio? Da Firenze, c'è l'accento. Da Firenze. C'è l'accento fiorentino. Tu tra 4 anni sarai al posto di Nardella, te lo dico io. E poi io ti voglio a condurre la trasmissione del mattino, quella di Telese. La zanzara la devi condurre tu, in arabo, deve essere multilingue, multiraziale. La zanzara è tua, è la tua trasmissione la zanzara. Dall'anno prossimo parlerò con i vertici della Confindustria e devi esserci tu, non Cruciani, io ovviamente sì, anche pagato, ma tu devi esserci tu al microfono, alla cara plancia di comando. Vedrai come cambiano gli audio. Trasformiamo radio. Senti Mohamed, a parte le cazzate, vi ho fatto sfogare un attimo. Io non ho ancora detto niente. Ma che vuoi dire? Io vorrei dire a questo award stand della sciusciaria che la radio non va fatta così. A me mi piace tanto perché poi si imparano tante cose, si dà la pace, si fa vedere. Senti, Mohamed, devi andare. No, ma io non mi sono offeso. Devo andare a fanculo. No, ma tu devi. Ma serenamente. Ma sai, c'ho 25 centimetri di fava. Sì, serenamente. Devi andare. Mi faccio leccare anche i piedi. Sì, va bene, ma fai tutto. Tu devi andare. Sì, devi andare. Tu non sei manco islamico, stai facendo finta di fare l'islamico. No, sono islamico. No. Devi andare serenamente, tranquillamente a fare in culo, ma proprio serenamente, con tutta la pacatezza possibile immaginabile. Allora ragazzi, qui abbiamo un generale che si aggira per l'Italia, un generale che vuole sequestrare il Parlamento, un generale che, mi ricordava prima il signor Telese, è stato deputato del Partito Socialdemocratico Italiano e dunque prende anche il vitalizio, il generale Pappalardo, il quale dice che il Parlamento è illegittimo, non può fare nulla, dunque bisogna arrestare i parlamentari, bisogna che il capo dello Stato intervenga per sciogliere il Parlamento. Vorrei ricordare al signor Pappalardo che il Parlamento fra poco viene sciolto. Comunque il signor Pappalardo che dice che è in atto un golpe da diversi anni, che sono tutti illegittimi e che loro ristabiliranno l'ordine. Loro chi? Quelli che hanno il popolo dietro, dice, ma non c'era nessuno in piazza del Parlamento dove è andato. Pappalardo, chiamiamolo Parenzo, chiamiamo Pappalardo, non ce la faccio più di sentisti matti. Pronto? Generale? Sì, con chi parlo? Sì, buonasera, qui Radio 24. A Radio 24, mi dica allora, che notizie mi dà? Come andiamo? No, lei mi dia notizie, come andiamo? Com'è finita l'altro giorno? Lì in Parlamento. Sì, in Parlamento, siamo, certo. Siamo andati lì. Sì. Nonostante le alluvioni. Sì. La questura che ci ha tolto la piazza e quindi ha spaventato le persone, c'erano 3.000 persone. Ma 3.000 non risulta, però, non risultano 3.000. Sì, sono 3.000. 3.000 sicuro, ce lo dice lei. Perché andavano a rotazione. Come? Andavano a rotazione. A rotazione. Cioè entravano, uscivano e se ne andavano in giro per Roma, perché io ho detto, signore, non ci state. Generale, mi dica una cosa, ma alla fine com'è finita? Che avete fatto? Una denuncia alla polizia? Che avete fatto alla fine? No, abbiamo fatto una cosa che non è mai stata fatta in Italia. Cioè? Il popolo sovrano ha dato atto di diffida al capo dello Stato di sciogliere il Parlamento. Ma popolo, è successo prima. Il popolo sovrano ha dato diffida? Ha dato una diffida al capo dello Stato in 80 giorni. E ma sta diffida come gliel'ha consegnata, sta diffida? Generale? Gli hai dato l'atto, ma il commissario di che cosa? Di polizia? Certo. Ma come certo? Generale, certo. Commissario, scusi, commissario, per i casi come il suo, no, sono Parenzo. Aspetta. Noi abbiamo consegnato un atto di diffida al commissario che era lì e abbiamo detto al commissario, questo è un atto di diffida. Ma era lì dove, scusi? In piazza, faceva ordine pubblico. Un poliziotto che stava lì a fare l'ordine pubblico, mi scusi. Certo, un poliziotto, è l'autorità di pubblico. Beh, certo. Assolutamente. Avete consegnato questa diffida? Sì. Sì, è lui che ha fatto questa diffida. E ho detto, questa lei la consegna al capo dello Stato. E se il capo dello Stato non fa niente? E lei cosa vuole da me se non fa? No, una domanda, se il capo dello Stato non fa niente, a parte bisogna vedere E lei cosa vuole da me se non adempia? Ma non lo so, ma guardi che la legislatura sta finendo, generale, cioè non c'è bisogno di sciogliere il Parlamento, ormai è finita la legislatura. Sì, però a lei sfugge un particolare. In

capito? Lo dirò nei miei video, dirò che lei è un emerito stronzo, la zanzara del cazzo. Lei è la zanzara del cazzo, ha capito? Scusi, scusi, generale. Lei è un emerito stronzo, generale. Generale, generale. A generale, italiani. Una roba incredibile, ragazzi. Addio. Il generale Pappalardo, sei un emerito stronzo. Ma pure ti sei preso lo stronzo pure da Pappalardo, ti rendi conto in questa tradizione? Beh, questa è una medaglia al merito, al valore militare, al valore militare, diremmo in questo caso. La medaglia. Boldrini, scusami, sei una brava ragazza. Boldrini, Boldrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Boldrini, Boldrini, ed è morta. La zanzara. A cari fratelli africani, ad in Libia, ad Eritrea, ad Somalia, ad Marocco, insomma, tutti voi extracomunitari, voglio invitare a venire a qui, Italia, sapere questa bella Italia, vita buona, alzare mattina presto, vai a rubare. Rubare, polizia non dice niente, se prende, porta albergo, a 5 a giorni. Appello a tutti i possibili migranti. Ma chi è? Parte Ma seconda, chi è? Aspetta. Mangiare, dormire, tavù, a tutto gratis. Uscire albergo, subito. Vai ufficio, ufficio assistenza. Quello dai soldi, chiamare sussidio. Noi qui non baga luci, non baga il big gas, non baga l'acqua. Voi esci fuori, vai dove vuoi. Autobus gratis, a treno a gratis. Passare avanti tutti, dai medicina. A tutto a posto, tutto gratis. Appello a tutti i migranti che vogliono venire in Italia, parte 3. Questa ci hanno benedetto, un paese veramente, dico veramente, meraviglioso. Italiano lavora poco, ma noi meglio, differente. Noi non lavoriamo, non pagare tassa. Vera democrazia, paese meraviglioso. Appello ai migranti italiani, parte 4. Adesso vi lascio, vado a prendere residenza e dare un sussidio un po' più grande, aiutare famiglia, dare casa. Io adesso deve nascere mia bambina, ma non chiamo più Fatma, chiamo Italia. Questo veramente paese democratico. Vostro fratello Abdallah Mohammed. Allora, cari amici, in realtà quello che potrebbe succedere ai due ragazzi stupratori, farò un volo pindarico, sarà eccessivo, Parenzo mi dirà sei il solito demagogo, non c'entra niente, eccetera eccetera, è esattamente quello descritto da questa meravigliosa parodia che circola ormai da diversi giorni, da quando siamo rientrati dalle vacanze e non abbiamo mai voluto, come dire, rendere nota al pubblico della zanzara. Stasera lo facciamo così, però devo dirti che quello che viene detto, quello che avete appena sentito, corrisponde perfettamente a quello che potrebbe accadere ai due ragazzi stupratori. Ho detto prima che alcune leggi che riguardano per alcuni reati, le leggi che riguardano i minori, andrebbero cancellate. Se uno stupra, non è possibile che rischia solamente 2 anni di carcere. Questo lo pensa il 99% degli italiani. e quando una cosa la pensa il 99% degli italiani, anche persone di sinistra, la cosa deve essere fatta. Togliete questa roba folle per cui se uno stupra a 17 anni prende solo 2 anni, questi qua rischiano solo 2 anni, è una vergogna, solo 2 anni di galera, amici miei, 2 anni, hanno stuprato un transessuale, hanno stuprato una ragazza polacca, è una vergogna incredibile e rischiano 2 anni al massimo, dicono. Ma non c'è dubbio che sia una vergogna. Ma non è una vergogna, tu sei a favore di queste leggi qua. Ma no, ho detto che non è una vergogna perché sono immigrati, perché non c'entra niente. Io sto dicendo semplicemente, ma anche se l'avesse fatto un italiano minore sarebbe stata la stessa cosa, che c'entra, esatto, dai. Esatto, perché bisogna capirne, come direbbe l'avvocato Emilio Trucco, la ratio della norma, di che vuol dire la tutela del minore, intanto, il carcere minorile, intanto, ma sono temi che tu non vuoi affrontare, come ad esempio non vuoi affrontare la grande campagna radicale, ero straniero, l'umanità che fa bene, vuoi sapere cosa c'è? No, non me ne frega campagna? Un cazzo, perché intanto è arrivata, il nome della campagna, non me ne frega nulla, non me ne... perché vanno i radicali, dicono le cattive, tutti sì, e vabbè, io te lo voglio dire, ma ha dato un permesso di soggiorno, i radicali non esistono più, sono morti, è finito tutto, è finito, non esistono. Io sono d'accordo con questa campagna, sì. Adesso so che la gente si scatenerà, ma io ti voglio annunciare che ho firmato che cosa hai firmato? Ancora che firmi le cose, non è meglio non firmare mai. Ho firmato la campagna dei radicali, ero straniero, l'umanità che fa bene, è una cosa molto semplice, chiediamo da radicali, chiediamo semplicemente che tutti quelli che arrivano non sono considerati più clandestini appena mettono il piede, è una follia, non è una follia, è la, viene è dato la, a tutti il diritto, lo Stato si arrende, lo Stato si arrende, no, anzi è esattamente il contrario. Vabbè, legalizzi, basta. La situazione, legalizzi la clandestinità. Vabbè. Quindi sai chi sono, e la campagna si chiama ero straniero perché non sei più, non esistono più stranieri, non ci sono clandestini. E intanto il generale Pappalardo ha reagito su Facebook contro la zanzara. Cari amici, quei cialtroni di Cruciani e di Parenzo, quegli emeriti cialtroni venduti alla Confindustria perché sono pagati da questi mascalzoni, hanno cercato di dirmi delle insolenze con questa trasmissione della zanzara, della minchia. Questa zanzara che invece di andare a controllare i peli del sedere alle lobby di potere, a quelli che affamano il popolo, vanno a rompere le scatole a un generale dei carabinieri che per 42 anni ha fatto il suo servizio, il suo dovere dappertutto, con onestà, con lealtà. Li ho fatti a pezzi, li ho mandati dove si meritano. Ho detto di togliersi dalle scatole e di non rompere le scatole di un uomo che con il popolo è andato lì a rivendicare un giusto diritto. Vi ha disprezzato. Questi cialtroni della zanzara hanno disprezzato il popolo. Ma dov'è? In un poligono di tiro. Ma dove l'ha detta questa cosa? Lo senti, sottofondo c'era delle esplosioni. Ma no, dove, ma cazzo sei? Ma quando ho avuto il tempo di dire sta roba? A Genera, quando cazzo stai al poligono di tiro? Ma perché sei andato a esercitare per il golpe? Ma dove l'ha detto? Ma la roba peggio di Tognazzi, non lo so. Ma su non Facebook, David, scusa. Su Facebook, cazzo, esiste anche Facebook come mezzo. Ancora non è ma finito. Ma il generale, sì, ho capito, non ha un cazzo da fare sto generale. No, però, perché ti pare una novità, secondo te? Pia due pensioni, una da generale e l'altra da deputato, e pensa a restare i parlamentari con due pensioni. Ma roba incredibile, dai. Senti. Cialtroni Cruciani e Parenzo, siete due cialtroni. Siete due emeriti cialtroni, disprezzate il popolo che diffida il capo dello Stato che tiene in piedi ancora questo governo, parlamento di abusivi. Siete due cialtroni, non meritate altro che lo sputo in faccia da parte della gente. Non meritate altro, siete il letame più schifoso della nostra società. Io, mi fa impazzire. Sì, è meraviglioso, certo, è meraviglioso. Il fucile dietro. Ragazzi, togliete Iervino. No, ma arrestatelo anche. Ma che arrestatelo? Ma che dobbiamo perdere tempo? Ma dobbiamo perdere tempo. Un attimo, gli voglio dire due paroline a questo bicchio. No, che risponde il suo. E richiamatelo, dai, forza, richiamalo. Dai, richiamalo, chi risponde il suo? Vergognatevi, voi della zanzara della minchia, mentre questi dal 2014 erano abusivi, voi della zanzara, che cazzo avete fatto? Siete stati zitti, non avete puntato il dito. Cruciani e Parenzo, toglietevi dalle scatole, mi fate semplicemente schifo. Chiama il generale, ti prego. Generale dietro la collina. Eccolo. Pronto? Sì. Sì, generale, voglio chiederle scusa. Generale, ma cosa ha preso? Pronto? Basta, sto generale. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Roba da pazzi, incredibile, troppo bello. Aldo da Milano. Ma quello non è un generale, quello è un coniglio, Non vuole parlare, Nando dalla sera. Rispondi, già. Generale, ma non sei un generale, rispondi, non fare il coniglio, generale Bappalardo. Aldo, vai, Aldo. Sì, ciao. Aldo Giovanni e Giacomo, dai. Lorenzo, guarda, nessuno ti poteva difendere. T'ho chiamato per difendere, parlare con te, non ti prendere in giro. Allora, volevo sapere da te. No, ma non dicevo di te, tu sei anche una brava persona, si capisce dal tono di voce. Dicevo ti perché ringrazio. Il 90% di quelli. Ma no, ma è evidente, si capisce dal buon senso, dal tono di voce. Volevo sapere da te. Se dovete chiamare in di più, capito? Ma che avete fatto? Comunella, avete fatto? No, ma dico, dobbiamo farci sentire, siamo il paese migliore, la migliore Italia, l'Italia che lavora, produce, che non è livorosa. L'Italia è un paese talmente assurdo che quelli che mettono su internet le foto del Duce rischiano carcere fino a 2 anni, stupratori minorenni 2 anni, questa è l'Italia, questa è l'Italia dei tuoi amici. Senti un attimo, scusami, e quella persona che io ho suonato per questo, volevo sapere da David se lui poi effettivamente prosegue attraverso le querele per tutte le ingiurie che lui prende. È una cosa vergognosa. Ma cos'è vergognoso? Scusa, non ho capito. È vergognosa quel testa di cazzo, scusami, e questo ci vuole, che ha telefonato un camionista, gli ha detto di tutto, è ebreo. Sì, ma questa non è la Boldrini's Country. Non è Boldrini's Country, questo non è Merlino's Country, questo qua. Che non possono essere tollerate, capito? Perché se questo lui lo dici tu, ma questo lo dici tu, questo lo penso. A lui, fammi parlare. Se lui vuole querelare, querela qualcuno, non c'è problema. Io ho chiamato per sapere. E che fai? Per dargli manforte? Per dirgli che deve querelare? Perché sei indignato? Perché sei indignato? Gli sto dicendo proprio questo. Perché se lui dà se l'antisemitismo fatto in questa maniera becera, da un deficiente... Tu sei ebreo? Sei ebreo? No, non sono ebreo. Sì. Guarda che sono una persona per bene, normale, non sono normale. È l'antisemitismo che la zanzara. Gli ascoltatori della zanzara tirano fuori quando intervengono. Alcuni, pochi ascoltatori. È vergognoso, è una cosa ignobile. Denunciatelo. Ma certo, e infatti io sono semplicemente chiamato perché, siccome non ho il telefono di Parenzo, non lo conosco personalmente, volevo sapere, ma tu poi effettivamente li quereli? Perché alcune se quereli le fa, altre no, penso. Guarda, amico gentile che hai chiamato, e ti ringrazio e ti abbraccio perché siete tanti, e del paese normale siete voi che lavorate, che non inveite, eccetera. No, alcune le vado avanti ovviamente per dovere, perché qualcuno deve essere randellato giuridicamente, deve avere la sanzione. Altre no, perché altrimenti non voglio intasare i tribunali. Vabbè, non gli frega un cazzo a nessuno, dai. Ben da no, chi c'è qua? Ben da Matera, Ben da Matera, vai. Ben, dimmi. Sentirvi, volevo parlare un pochettino con voi. O sì, dipende, un pochettino, non esageriamo. Adesso, con gli altri ascoltatori no, con noi forse, quanto per il tempo che le sarà consentito, caro Ben, dimmi. Non c'è nessun problema. Dimmi. Volevo intervenire per quanto riguarda questa davvero ingloriosa... uscita di Fiano. Non è un'uscita, è una legge del Parlamento che è stata approvata, non c'è nessuno, non c'è nessun decreto. Tu già mi hai fatto innervosire dopo 30 secondi. Cioè, non so perché, sono già nervoso dopo 30 secondi. Comunque continua, vai al sodo, vai veloce, rapido, vai. È incredibile, Cruciani. Ho capito, ma mi stai facendo innervosire, non vai al sodo, che ce posso fare se ti incazzi, dai. Non è che mi fai incazzare tu perché non vai al sodo, dai, vai. Allora, recapitulation. Stavo dicendo volevo intervenire riguardo a questa legge, come l'hai definita giustamente tu, che andrà ancora in Senato. Sì, volevi intervenire, ecco. Lo sappiamo. Dimmi quello che vuoi dire. Stai girando intorno, abbiamo perso un minuto con queste cose inutili, vai. Vado al manicomio. Poca coerenza da parte del Fiano, perché poca coerenza, cosa, anzi lui è coerente da parte il fascismo, il fascismo di qualsiasi colore, non è solo nero, ma c'è anche quello rosso. Vabbè. Qualsiasi ideologia politica che sia violenta. Applausi, così. Assolutamente bene. Combattuta. Bene. Nando dalla provincia di Milano, ciao Nando. Qui qua, dimmi, pronto, dimmi, Cogiani. Dimmi. Dunque, io volevo dire sul fatto dei carabinieri. Mi no? segnalano che qualcuno che oggi dalla signora Merlino è andato pure Carbone a piangere sull'odio sul web. Ormai è proprio una processione di piagnoni che protestano contro la violenza del web. È una campagna giusta per sensibilità. È una campagna certo. giusta. Sì, sì, la Merlino è diventata la Merlino, la mia amica Merlino. Dico, purtroppo io dico, ma la critico per questo. È diventata la portavoce della Boldrini. Incredibile. Nando dalla provincia di Milano. Vai, Nando, dimmi. Allora, volevo parlare dei carabinieri. Sì, dimmi. Dunque, lì uno, mi dispiace io, di questo che è diventata la portavoce della Boldrini, però così è. Nando, vai, dimmi. Allora, tu non hai messo l'ipotesi che quelle due ragazze, io me le sono viste anche in fotografia, come sono fatte, via di seguito, un po' di esperienza ce l'ho. Vabbè, allora? E quelle due ragazze non sono rimaste soddisfatte della sveltina che hanno fatto sì due crediti. Scusa, le foto dove le hai viste, scusami? Su, mi sembra su Rete 4. Ma le foto di chi, scusami? Delle due ragazze. Non esistono le foto delle due ragazze. Allora, ma ho visto è un falso. Due che... È un falso. Un falso. Vabbè. Comunque. E allora che cazzo dici? Se è un falso? Ho visto le foto delle ragazze. È un falso. Non possono esistere le foto delle persone stuprate. Non vengono, non vengono diffuse quasi mai. Quello della televisione mica un fatto mio. Ma a parte che non credo che Rete 4 abbiano presentate come le foto delle ragazze. Non mi ricordo che sta. No, vabbè, allora che cosa vuoi dire? Sono due ragazze. Sì, allora. Quello non è importante. Ma che vuol dire visto ragazze, io pure io ho visto tante ragazze, che cazzo vuol dire? Ho visto due ragazze, tutte due mignotte che bevono, avanti. Tutte le sere la gente va in discoteca a rimorchiare e quando rimorchia esce bevuto. Ma non è allora un delitto. Ma non è un delitto andare in discoteca, ubriacarsi e rimorchiare, non è un delitto. Ma è la vita, è la vita. Lo so che è la vita, ma non lo dite. Ma che non lo dite cosa? Non lo dite cosa? Tu magari lo dici ogni tanto, però fanno colpevoli tutta la gente che si comporta in questa maniera. Cioè, tu stai dicendo che, come ho detto io prima, per carità, che ti è capitato qualche volta, non so a te perché non mi sembra il caso, di portarti a letto delle donne ubriache, giusto? Ma centinaia, se non migliaia di volte. Cioè, tu hai scopato migliaia di donne, non ho capito. È l'unico modo che lui ha. Io ho pure 80 anni. Cioè, 80 anni ancora scopi? È l'unico modo che lui ha. Ma questo è fondamentale, questo è fondamentale. Fermi tutti, fermi, torniamo tra un attimo. Nando, ti voglio con me. 80 anni, dice che ancora scopa, dice delle cose terribili sulle ragazze, eccetera, però è interessante. Non meritato altro che lo sputo in faccia da parte della gente. Non meritate altro. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presento La Zanzara. Non meritato altro che lo sputo in faccia dalla parte della gente. Non meritate altro. Signori, scusate, io non ho tempo da perdere mezz'ora e 40 minuti per una pugnetta, con tutto il rispetto. Se devo perdere mezz'ora e 40 minuti lo faccio per una scopata, non per una pugnetta. Con tutto il rispetto, professore, con tutto il rispetto. Crux, Fusaro è come quegli amici che quando si parla di pippe fanno i moralisti e ti dicono ma no, ma di cosa parlate? Ma non si parla di certe cose, io manco me le faccio. E poi sono quelli che si sfondano. Io scommetto che Fusaro si è frantumato il cazzo a furia di seghe. Siamo al top platonico. Allora, caro Delitto, io farei una telefonatina a questo punto, sono le 20:21, farei una telefonatina molto rapida, importante, però l'abbiamo già sentito a Matrix ieri sera, al padre dei due stupratori, accertati in questo caso, anche se loro dicono di non avere partecipato direttamente, i due ragazzini. Non vogliamo richiamare un attimo Pappalardo, non vogliamo richiamarlo Pappalardo, dopo Pappalardo, abbiamo già dato tutto, cosa c'è più da dire di Pappalardo? Sì, lo chiameremo, no, certamente. No, molestarlo di continuo. Molestarlo capito? Di continuo, sì, però abbiamo anche giorni, non è... Non, non moriamo domani, non chiude la Zanzara domani, stasera non è l'ultima puntata. Io non lo so, non chiude domani? No, non chiude, non sembra, cioè non c'è, non tira aria, miseria. Non tira aria di chiusura però. Cioè vogliono ancora hanno ancora confermato questo prodotto. No, ma vuoi raccontare quello che ti ha detto il professor Galli della Loggia? Non l'hai ancora detto a Camogli l'altro giorno? No, lo racconterò domani. Ti prego, racconta quello che ti ha detto il professor Ernesto Galli della Loggia. Vabbè, chiamiamo il padre del ragazzo, dai, sennò sì. Abbiamo una mezza appuntamento. No, appuntamento no, abbiamo detto sì, lei potrebbe potrebbe starci, no? Sì, vediamo, rispondo, non so se ci sono a quell'ora. Sì, sì, Mohamed, buongiorno, buonasera. Buonasera. Sono qui Radio 24, come sta? Sì, bene, bene. Senta, volevo sapere come si sente oggi, cioè come si sente in questi giorni. Bene, bene, insomma stiamo passando un po'. Sta passando? Sì. Volevo sapere che cosa spera per i suoi figli. Spero con una buona vita dopo, questa qui fanno pagare, imparare tante cose con questa cosa. Spera di rivederli presto? Ah sì, magari, perché sono ragazzini, con questo mettono la testa a posto e cominciano ad aiutare le donne, perché le donne non si toccano. Adesso mettete in testa questa cosa, quando uscite, trovate qualche ragazza in difficoltà, andate a aiutarla. Sempre pagate con questi sbagli la vostra vita. Io l'ho detto già questa questo cosa. È giusto, questo è molto, questo è molto giusto. Senta, lei personalmente che punizione darebbe ai suoi figli per lo stupro che hanno fatto, per la violenza atroce che hanno fatto? Personalmente, che punizione darebbe ai suoi figli? Non lo so, io quel giorno lo volevo mandare all'ospedale, te lo giuro, non lo volevo proprio... Però non ho neanche tempo, volevo darle io le botte, tante cose, non lo so. Questa cosa è bruttissima, non si fa. Adesso il consiglio l'ho fatto io a loro, sono pentiti, sono sentiti il peso pesante, sono pianti, spero che questa cosa mettano la testa a posto e cominciano a vedere una nuova vita pulita. Aiutano la gente, e questa cosa non dimenticherò mai. Sempre lo dico a loro. Ecco, Mohamed. Quando trovate qualche ragazza, qualche donna in difficoltà, qualche branco, aiutatela anche se rischiate la vita. Non mi frego. Hanno fatto una cosa orrenda, gli hanno insegnato prima, signor papà, di questi. Senta, qualcuno, Mohamed, mi scusi, alcune persone, alcuni politici della Lega, per esempio, vorrebbero la castrazione chimica per chi fa queste cose, per chi fa gli stupri. La castrazione, lei è d'accordo? Sì. Per un ragazzini no, per un maggiorenni sì. Per ragazzini hanno, perché hanno castrati con quello lì, perché quello lì appena venuto dalla Libia, un provoco, non è come loro, loro sono nati qui, cresciuti qui. Magari in Libia ha fatto tortura, ha fatto stupri, è passato una vita brutta, è venuto qua in Italia e ha fatto queste cose. Ma chi? Quello del Congo? Quello del Butungu? Sì, quello grande, perché loro, anche se vanno a rubare un telefonino o qualcosa, ma non mai fanno questa cosa del genere. Cioè, hanno fidanzati loro, c'erano i loro fidanzati. E lei dice, Mohamed, che la colpa è stata di quelli là, cioè la colpa è stata di quello là più grande di loro? Sì. È lui che li ha spinti allo stupro, a fare questi stupri, stupri di gruppo? Sì, magari anche quello, io non lo sapevo, perché i miei figli hanno detto che ne hanno toccati. Hanno magari rubato i cellulari, i soldi. Il mio figlio è grande perché è bisicciato con congolesi. Ha detto lascia la ragazza, lascia la ragazza. E quello lì mi ha minacciato con la bottiglia e mi ha mandato via. Perché non volevo che fanno stupri loro. Cioè, non ho capito una cosa, lei dice che loro non hanno fatto niente alla fine? Hanno rubato, hanno aiutato perché hanno arrivato a questo punto, non è che non ha fatto niente. Cioè non hanno violentato la polacca? No, sì, no, non penso, no. Beh, amico mio, però no, sì o no? Perché... No, io e allora, io di cosa quello... allora di cosa si devono pentire, scusi? Aver rubato, d'accordo, ma lei dice... Però erano partecipati, erano lì, erano con quello lì, per quello hanno pensato, per quel fatto che era... Lei non doveva essere in Italia, poi è tornato perché era stato espulso e poi è tornato, da clandestino, giusto? Sì. Quante condanne... Non è da clandestino, perché le carte ce le avevo già pronte io. Quando è tornato l'ho trovato pronte. Ho capito, però io è entrato... 30 anni in Italia, 30 anni io in Italia. E poi è stato espulso perché era stato condannato? Sì. Per quali reati? Per un forzo, per una rissa, una cosa piccola, sei mesi. Ma che non vuol dire che sono cose piccole queste, però, professor signore, Sì, perché non hanno fatto male a nessuno, non è armato. Poi ha fatto altri furti? Non ragione io, è la mia macchina, perché ho prestato a un amico, ho fatto un furto, io sono stato condannato perché ho dato la macchina. Quanto ha preso in tutto lei? Quanto io carcio? Ho 30 anni in Italia, avevo 3 mesi nel 2004, sì, e 3 mesi nel 2013, poi? E 6 mesi quando ho tornato mi hanno condannato perché clandestino. Dopo questi 6 mesi che mi hanno portato dentro, i miei figli sono sbandati. Loro amano l'Italia e gli italiani o no? Amano l'Italia? Sì, sì, sì, sì. Io nel 2004 ho trovato il lavoro a Colonia, in Germania. Volevo portarli e quelli sono ancora piccoli, non volevano neanche andare. Ho detto no, siamo qui. I tuoi figli accusati di stupro della polacca e della trans, sì, amano l'Italia, amano questo paese. Sì, sì, sì. Come sì, si troveranno in carcere secondo te? Male, malissimo, mi ha detto l'avvocato, sono malissimo adesso, stanno piangendo, non, adesso hanno capito che cosa hanno, perché prima non capiscono. Ma non c'è da capire, hanno fatto una cosa terribile, gravissima, è uno dei reati più vergognosi che esistano, capito? Comunque, amico mio, un'ultima cosa, poi ti lascio, la gente è incazzata, perché dice, ragazzi minorenni, 15-17 anni, quanti anni hanno i tuoi figli? Uno 15, uno 17? 15, uno 17. Dopo 2 anni potrebbero uscire di prigione. Capito? Questa la gente è incazzata. La gente ma non è che escono criminali, no, escono, fanno la loro vita, fanno il loro studio. Ho capito, ma 2 anni. Hanno commesso un reato brutale, però. Bruttissimo. Ma 2 anni sono pochi, amico mio, sono pochi 2 anni. Hai visto la storia dei carabinieri? Che pensi della storia dei carabinieri? Mi dispiace perché loro sono la forza dell'ordine, ha un sbaglio grosso anche loro. Hanno servizi, hanno tante cose. Però non, io non credo che i carabinieri vanno a stuprare, perché non ho mai messo in testa un carabiniere fa questa cosa. Dunque, secondo te? Non lo so, secondo, non credo. Non ci credi a questa cosa qua? Non ci credo. Cioè, no, secondo te? Hanno andati d'accordo e dopo hanno girato la storia, è diventata così. Cioè, secondo te le ragazze americane hanno mentito? Hanno sballato, hanno fumato, come hanno detto loro, hanno fuori di testa. Erano fuori di testa? Non penso, però i carabinieri hanno sbagliato. Ti piace il signor Salvini? Mi piace come persona, come parla, come tanti sbagli lo faceva. Dice che vorrebbe tagliare il pisello ai tuoi ragazzi, però, che vorrebbe evitare. Sì, sì. Vorrebbe... Ha ragione, sì, sì, sì. Come ha ragione? Anche io dico così, se mi capita a mio figlio qualcuno, mi fa un così. Però cercavo, è della Lega, abbiamo scoperto. Bene. Ciao, ciao, ciao, okay, grazie. Ciao, grazie. Il padre degli stupratori. Io ho fatto poche cose, cose piccole, ho rubato una volta, ho entrato in Italia piccole, clandestino. Ragazzi, se tu entri in un posto da clandestino, non ti fanno i tappeti rossi dopo, non ti lasciano stare dentro, ti cacciano fuori. In Svizzera costruiscono delle prigioni dove stai un po' di tempo, delle prigioni, delle celle, e poi ti riportano al tuo paese. È così. No, entrare in Italia da clandestini, no, poi non è il lascia passare. Ho fatto cose piccole, rubato. Cioè, questa è l'Italia, capite? L'Italia, questi i figli di questo signore che avete appena ascoltato qui, dire io ho fatto cose piccole, no, spero che pescano presto. L'Italia è 2 anni agli stupratori e forse 2 anni a chi mette le foto del Duce. Questa è l'Italia, ragazzi. Addio, mi sa che lascio l'Italia. Se continua così, abbandono l'Italia. Abbandono l'Italia. Oh, che bello, qui non ci più la radio. Tu sei una pezza di merda, sei. Ciao Giuseppe. Io ti voglio bene, io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso. Sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo. Guarda nella puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei. Querelami, merda, querelami. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. La Zanzara. Allora, Fusaro dice che le pippe non si possono fare. Parenzo dice che a puttane non possiamo andare. E allora, come mi chiamo a fare qua? Ah? Ma che ti sembra un mondo normale questo, eh? Parenzo! Allora, caro Parenzo, ti voglio presentare una persona molto, sì, molto importante questa volta. Cioè, no, ma veramente un professore universitario, innanzitutto. Una persona che ogni giorno combatte per curare delle cose gravissime. Per rimettere a posto delle disfunzioni che sono fondamentali nella vita di un uomo, soprattutto nell'approccio alla quotidianità, ma direi proprio per la vita. Ah, è interessante, bravo questa cosa che fai. In collegamento con Bari, il professor Carlo, sì, Bettocchi, che è urologo. Io ho una famiglia di grande tradizione di urologia. Mio zio è stato un grande urologo. Non troppo, poveretti, che si vergogneranno. Andiamo avanti. Ma no, non si vergognano per niente, assolutamente. Beh, è stato uno dei primi. Ma no, lui è un grande professionista, il dottor Cucciari, ma quando lui è lì e gli dicono lei non sarà mica parente di quella. E lui orgoglioso dice di sì, assolutamente orgoglioso. Dice sì. Allora, questo professore è professore di urologia all'ospedale di Bari. Ma perché dovrebbe essere per noi importante? È un chirurgo andrologico, perché a Bari in questi giorni si riuniscono esperti, grandissimi esperti, tra cui il professor Carlo Bettocchi, di ricostruzione, ma adesso magari sbaglio i termini, di ricostruzione del pene, ma è fondamentale. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Come sta, professore? Bene, grazie. Ho sbagliato qualcosa? Sì, allora il motivo per cui siamo a Bari è, sì, perché stiamo facendo un incontro di chirurgia in diretta, ma più che sulla ricostruzione del pene, sì, sull'implantologia protesica, impiantare all'interno dell'organo una protesi che permette di restituire una funzione che alcune persone a un certo punto della loro vita perdono. Allora, è importante questa cosa qui. Questo interessa molto Andro Mercue, uno dei nostri autori, quindi Mercue è lui che ha voluto. No, interessa a molti italiani. Quante persone in Italia hanno problemi erettili? Il generale Pappalardo, sta roba qui. Disfunzioni. Quanti italiani hanno questo tipo di disfunzioni, professore? Ma sempre di più. Se lei pensa che il 50% degli uomini, questo non in Italia, ma in giro per il mondo, in diverse, sì, studi fatti un po' in tutto il mondo, il 50% degli uomini hanno durante la vita problemi di disfunzione erettile. Beh, non è che tutti quanti hanno bisogno. Porta aggressività, anche vero, porta a diventare anche razzisti, certo, noi con Salvini, questa roba qui porta anche a questo. Assolutamente. Scusi professore. Vedete, professore, che praticamente questa roba qui ti porta a essere aggressivo e ti porta a votare noi con Salvini. No, non ha detto questo. Questo non l'ha detto assolutamente. Noi impiantiamo anche per questo, insomma, per cercare di cambiare un po' lo schema politico italiano. Addirittura, cioè l'impiantologia del pene può servire a bloccare. Lo scienziato ti ha spiegato che siccome avere, diciamo, le dimensioni piccole, avere anche dei problemi di erezione, ti porta a una certa aggressività. Sei aggressivo, quindi te la prendi con i migranti, quindi prendetela con i migranti, voti noi con Salvini. Cioè, è la conseguenza di questa roba qui, è l'8% della popolazione che rispecchia la percentuale di quelli che hanno problemi erettili, mi pare. Non credo mi che pare, il professore sia d'accordo con questa analisi. Mi sento quasi inappropriato di fronte a voi come scienza, quindi penso che vi ascolto con piacere. No, professore, allora, però prendiamo la cosa seriamente. Allora, no, le protesi, non è che tutti il 50% di uomini che hanno problemi erettili hanno bisogno di protesi, poi, no? Naturalmente. No, ecco, quanti hanno. La percentuale quant'è? Sì. Quante persone opera lei all'anno, per esempio? Piccola. Ma diciamo che in Italia si operano circa 300-400 persone all'anno, ma il numero è molto sottostimato, perché in realtà la richiesta è tanto superiore. Addirittura. Ci sono dei problemi legati ai costi di questi impianti, e molti ospedali limitano il budget per poter fare questa chirurgia nel pubblico. Ma che cos'è che mettete voi? Delle specie di protesi? Che cosa vuol dire? Dei robot? Come si trasforma il pene con una protesi? Mi spieghi? Si trasforma attraverso un meccanismo idraulico che è formato. La famosa pompetta, diciamo. Bravissimo. Sì. È diventata famosa con questo nome. Sì. Praticamente esistono due cilindri all'interno del pene che sostituiscono quelli che normalmente, quando l'uomo sta bene, in fase di erezione il sangue rende rigido il pene. E come si aziona questo cilindro? Non accade, e si aziona attraverso appunto questa pompetta di cui ha parlato, che si trova solitamente, viene posizionata nello scroto, sì, e che serve per far defluire il liquido che sta in un serbatoio, che invece si trova dentro la pancia, diciamo, sotto i muscoli, sì, del retto. Il liquido esce da questo serbatoio, va a finire dentro il pene, in questi cilindri, e il pene diventa rigido. Vabbè, ma funziona sta roba veramente o no, professor? Funziona o no sta roba? Assolutamente, lei pensi che c'è oltre il 90% di soddisfazione da parte sia dei pazienti che delle loro parti. Scusi, ma lei fa anche allungamento di pene? Cioè le chiedono anche di allungarlo? Anche, sì, sì, sì. Un caso... diciamo, con la protesi si possono fare un po' tutte queste cose, cioè si possono, diciamo, raddrizzare dei peni storti che altrimenti, diciamo, non si potrebbe, perché ha anche problemi di funzionare. Lei incontra molti peni storti? Anche sì, sì, sì. Molti. Per esempio, un caso, dei casi clamorosi. 15%, c'è un 15% ormai, sì, degli uomini che hanno questo tipo di problemi. Ecco, dei casi. Ma com'è che diventano storti? Scusi, questo io non capisco. Com'è che, per usare l'immagine, ecco, di Kant, il legno storto, sì, dell'umanità, esatto, com'è che diventa, diciamo, storto, che... il pene? Non esiste ancora oggi una risposta a questa sua domanda, sì, nel senso, beh, che l'ipotesi più, sì, al momento più acclamata, ma non è ancora supportata, sì, scientificamente, è che possano essere degli esiti di piccoli traumi che poi formano delle specie di cicatrici all'interno dell'organo che fanno perdere l'elasticità in quella e parte. Mano a mano, mano, e quindi dalla curva, esatto, si forma una curvatura da dove c'è. Ma il caso più clamoroso che lei ha incontrato di pene ricurvo, di pene, diciamo, che doveva essere... Adesso non può fare il nome del generale Pappalardo, dai, non può dirlo. Ma che su, c'entra il generale Pappalardo? Che c'entra? Ma perché devi essere così cattivo? Ma non ho chiesto il nome, non ho chiesto il nome. Ho chiesto... Anche... oltre 90 gradi, giusto per farle capire quanto si il può famoso studiare. Ombrello, diciamo, ombrello, il famoso, sì, caso, sì, ombrello. Sì. Ma esatto. Scusi un attimo, ma io voglio dire una cosa. Lei è in fin dei conti ha passato la vita, per adesso è giovane, quanti anni ha lei, professor? 50 e passa. 50 e passa a guardare peni, cioè a guardare quelli che volutamente, sì, vengono chiamati cazzi. Non si è un po' rotto le balle, sì, di questa cosa qua, oppure no? Cioè non si è un po' stufato di guardare queste cose, oppure è una sua grande passione, ma, non il pene, per carità. Ma no, non la vorrei chiamare grande passione, ma è quando uno ha entusiasmo per fare un sì, lavoro, come magari ce l'avete voi, quello che fate ogni giorno, sì, cioè alla fine poi uno non si stufa. Quando uno si stufa è meglio cambiare lavoro. Ecco, lei ha mai incontrato testicoli giganti, per esempio? Anche, sì, come no. Quanto un testicolo gigante, quanto può essere? Anche tanta roba, mi creda. Cioè, tipo? Nel senso che ci sono pazienti con dei linfedemi enormi che hanno veramente uno scroto che può essere grande come una palla da pallacanestro. No! Cioè, uno scroto come una palla da pallacanestro? Ma una roba del genere? Ma è come si forma? Come si interviene su una cosa del genere? Lì purtroppo se è un linfede bisogna rimuovere la cute e ricostruire con cute prese da altre parti del corpo. Mamma mia, una cosa tremenda. Devi sapere, caro Parenzo, sì, che il professor Bettocchi è uno dei più grandi esperti pure di passaggio di sesso, soprattutto un passaggio di sesso che è meno conosciuto, cioè da, sì, donna a uomo. Cioè lui impianta il pene nelle donne che vogliono diventare uomo. È vero, professore? Allora, impiantare non è il termine giusto. Lo so. Anche se ormai, specie in America, hanno incominciato dei progetti per il trapianto. Ma quanti ne fa lei lì in Italia di questi? Ma al momento si confeziona, infatti viene chiamato fallo, non viene chiamato pene, perché, sì, si confeziona un fallo, che è un penoide, cioè un qualcosa che assomiglia a un pene, sì, esteticamente, ma non lo è. Sì. E in questi casi si fa anche un impianto di protesi, ovviamente, per dare la rigidità all'organo. E sono interventi, questi sono interventi complessi comunque, perché a seconda delle tecniche si usano. E quanto costa impiantare un pene? 10 ore. E no, ma quanto costa? Io lo faccio nel pubblico, quindi amo dare questo messaggio che questi. E se invece uno vuole fare nel privato, pubblico, quanto costa? Ma dipende dalla tecnica che li usa, quindi però i costi dipendono veramente dal. Ma più o meno, quanto può costare? Ma possono costare dai 10 anche ai 30, cioè dipende, insomma, dipende da quello che uno fa alla fine. Certo, e il pene. Sono interventi che durano anche 10 ore di microchirurgia, che sono interventi veramente complessi. E il pene più piccolo che hai visto in vita sua, quanto è? Su cui è dovuto intervenire per un allungamento? Un pene viene definito piccolo quando ha una misura massima in estensione. L'estensione cosa vuol dire? Che se lei prende il pene dal grande e lo mette in trazione, deve misurare non più di 7 centimetri dalla base del pube, cioè da dove sente l'osso del pube. Ah, dalla base del pube, base del pube fino alla punta in erezione? Non quello che vede, ma quello che lei riesce a misurare spingendo un dito. Pube, attenzione, allora spingete il dito su, fermatevi tutti in macchina dove siete. No, ma è importante questa, ma deve essere in erezione o no, professore? Mi scusi. L'erezione lei la può, diciamo, simulare mettendo in trazione il pene. Ah, come si mette in trazione il pene? Scusi. lo tira. Ah, lo tira. Lo grande, lo tira senza staccare. Allora, fermi, perché questa è bellissima. Questa, scusi, mi scusi, professore, questa lei mi ha suggerito una grande cosa. Allora, dito dove? Sul pube? Dito per mettere, se ne mette un centimetro, deve fissare da qualche parte. Allora, mette certo. Un apice sulla base del pene, quindi sul pube, sì, dove c'è l'osso, sì, e l'altra misurazione la prende all'apice del glande. All'apice del glande, ovviamente, facendo quest'opera di trazione. Sì, esatto, quest'opera di trazione del pene, la trazione, esatto, del pene. Parenzo, esatto, hai mai fatto la trazione del pene? No, può essere sincero, no, ma mi fa anche, come dire, una certa impressione sentirne i dettagli, perché avendo sempre avuto io, come tu sai, un ottimo rapporto con l'organo riproduttore maschile, un rapporto di serenità anche, vabbè, allora, di affetto, la, non vuoi, no, no, anche di gioia per quello che mi ha regalato la madre natura, sentire questi allungamenti, questi, mi fa un po' impressione, no, tanti, vabbè, ma è normale, non, ragazzi, fermatevi tutti un attimo, fate questa, ma che impressione, fatevi questa trazione, cioè spingete dove ha detto il professore, fate la trazione e misurate, se siete sotto i 7 centimetri c'è un problema, mi sembra, no professore, no? Beh, se sotto i 7 centimetri è per definizione, cioè per letteratura, è un micropene. Un micropene. Quindi in quei casi bisogna intervenire. Cioè, bisogna, cioè, non è detto. Attenzione, fermi tutti. Dichiarazione del generale Pappalardo. Sui 7 centimetri si è inalberato. Denuncia Radio 24 perché dice che avendolo lui di 2,5. E allora è arrabbiato. Professor, ma veramente, secondo lei, se uno ha 7 centimetri bisogna intervenire o uno si può ottenere un pene di 7 centimetri? Ma con 7 centimetri diciamo che è quasi impossibile la penetrazione, perché con 7 centimetri in trazione le immagini perde un po' di centimetri anche per il grasso sovrapubblico che ognuno di noi ha, e quindi alla fine quei 7 diventano 5, cioè, diciamo, è quasi impossibile. Ma lei, più piccolo che ha visto, quanto è stato? Se uno è interessato a questa funzione, che non è che tutti, magari c'è anche chi non è interessato. Beh, insomma, chi non è interessato non credo che sia, però può essere. Solo per la menzione, diciamo, non serve. Se invece certo, c'è, vabbè, un interesse. Senti, ma questa augusta conversazione possiamo interromperla qui, direi. No, assolutamente. Senta, quello più lungo che ha trovato invece di quanto era? Eccolo. L'impianto più lungo era... No, non l'impianto, il pene più lungo che ha... Ma non, diciamo, non è che, ecco, uno fa una misurazione di un organo perché è troppo lungo, uno lo misura quando è troppo corto. E quindi posso dire l'impianto, cioè la persona, sì, che io ho dovuto operare, per cui chiaramente ho dovuto prendere una misurazione, c'era 28 centimetri. 28 centimetri, mamma mia, ragazzi. E larghezza? Non l'ho misurata. Comunque, ragazzi, se siete solo i 7 centimetri siete rovinati. Comunque, ragazzi, al di là degli scherzi, professore fa una grande cosa e si occupa di piselli, si occupa della vostra vita. Professore, arrivederci, grazie, ciao. Grazie a voi, ciao, buonasera, ciao. Saluti professore, grazie. Nando, 80 anni, Nando? Dimmi. Allora, che dicevi che sulle donne... No. Semplicemente dicevo che a 80 anni scopi ancora o no? Vabbè, a 80 anni lasciali perdere. No, ma a 80 anni scopi o no? Come no? Quanto ce l'hai lungo? Hai fatto cosa? No, io sto bene, sto ben fornito e non mi sono mai lamentato. Vuoi fare questa cosa qua? Premi un attimo sulla base del pene. Premi un attimo dove ha detto il professore. Fai la trazione. Vabbè, non mi metto a fare queste cose. Parliamo di quello che dobbiamo parlare. Non c'ho voglia di fare queste cose. Perché comunque non vuoi fare la trazione? Ti assicuro che sono ben fornito. Ma ancora, non sei esagerato. Ma ancora ti tiro o no, 80 anni? Nessuno si è lamentato, certo. Ma ancora ti tiro o no? Perciò io quando sento queste cose, ma con gente che c'ha 65-70 ma come anni vai? Con le pasticche ti tira a te? Ma no, niente pasticche, niente, no, assolutamente. Ma come fai? Una canna ogni tanto. Una canna? Sì. A 80 anni? No, vabbè, 80 anni, a 60, 50, 40, 30. Parenzo, questo qua è un fenomeno. Nando, io ti chiamo domani. Voglio che mi racconti tutto, le canne, il sesso, 80 anni, portarsi a letto le donne. È una storia imperdibile, proprio. A demain, a domani, ciao ragazzi, ciao, ciao. Là ci vuole la nerchie. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.